La fanciulla ebrea, una ragazza che parlava di Dio. Chi legge la storia del popolo di Israele viene a conoscenza di quante guerre e guerriglie con i popoli vicini abbiano martoriato questo popolo prima della nascita di Cristo. Circa 900 anni avanti, Cristo, tuttavia, ufficialmente c'era pace in Israele, nonostante le truppe del re di Siria continuassero a fare scorrerie nella terra del popolo di Israele per catturare prigionieri e ridurli in schiavitù. Un giorno catturarono una giovinetta ebrea che non aveva più di 15 anni. La Bibbia non ci dice il suo nome. Forse perché davanti a quello che viene detto di lei, conoscerne il nome diventa di secondaria importanza. La ragazza divenne la serva della moglie di un alto ufficiale dell'esercito del re. L'ufficiale era Naaman, un uomo molto abile ed influente, grandemente onorato dal re per il suo valore in battaglia. Forse in risposta alle preghiere dei genitori che temevano Dio comunque. La ragazzina arrivò in questa buona famiglia, probabilmente attraverso il mercato degli schiavi di Damasco. In quel periodo Naaman era profondamente ansioso, un'ombra era caduta sulla sua vita e non la poteva scacciare. Si era reso conto di avere la lebbra, la più tremenda delle malattie. Quando una persona contraeva la lebbra, veniva emarginata per il resto della sua vita. La morte era inevitabile. Però, prima che essa venisse a liberare dal suo isolamento chi ne era affetto, potevano trascorrere degli anni. Naaman era già un uomo morto. La sua morte fisica si sarebbe potuta verificare anche molti anni dopo, ma in realtà per sua moglie, per il suo padrone, per i suoi colleghi e per la piccola serva, egli non sarebbe più esistito a lungo. Nessun re, nessun trofeo di vittoria, nessun onore, nessuna persona potevano impedire prima sua morte. Naaman sarebbe stato costretto a vagare al di fuori delle mura della città come un mendicante. Avrebbe dovuto avvertire tutti quelli che gli si sarebbero avvicinati di starsene lontano. Naaman e sua moglie avevano cercato di tenere nascosta la malattia, ma ciò non sarebbe stato più possibile. Il segreto era trapelato e perfino la serva era al corrente della terribile situazione. La fanciulla era avvilita perché era prigioniera di un popolo straniero e pagano, ma la sua fede nel Dio di Israele, trasmessale certamente dai suoi genitori, l'aveva aiutata in questo. Si era di sua spontanea volontà sottomessa ai suoi superiori, e per questo provava simpatia e amore per loro. La moglie di Naaman, riconoscendo questo, si fidava di lei e le confidava anche certi problemi personali. Sì, aveva un problema, ma i problemi non esistono forse per essere portati davanti alla propria divinità? Di certo anche il problema della lebbra era stato presentato da Naaman e sua moglie davanti al loro Dio, ma, non esistendo, era evidente che questo Dio non fosse intervenuto. Ma c'era una speranza a loro sconosciuta. Non sapevano questi siri che Dio aveva un servo sulla terra, il cui nome era Eliseo? Poiché Eliseo era una figura grandemente onorata nella sua casa paterna, la fanciulla, mossa da pietà, andò dalla sua padrona con una proposta molto naturale. A volte non è tanto la verità che fa breccia nei cuori, ma il modo in cui la si dice. Proprio perché questo è vero, proprio perché la semplicità ha un grande valore, i bambini sono avvantaggiati nel pronunciarsi, così la fanciulla domandò: perché il mio signore non va a visitare il profeta che è in Samaria? Egli può guarirlo dalla sua lebbra. Poche parole, ma quale differenza produssero? Esse arrivarono al cuore della padrona, la quale stette pensosa, perplessa, intrappolata da un vortice di pensieri. Invece di una morte certa, c'era una possibilità di vita, una speranza. Forse una debole speranza, ma era comunque una speranza. E quando ci è speranza, ci è vita, ci è desiderio di provare, di tentare. Dopo breve riflessione, la sua padrona prese quelle parole seriamente e il suo padrone pensò che fossero abbastanza importanti per parlarne al re. Chissà se anche lui le avrebbe ascoltate. Il re ascoltò la proposta attentamente e, alla fine, anche nel suo cuore nacque una speranza. Dopotutto, era il migliore ufficiale dell'esercito. È vero che doveva chiedere un favore ad un re nemico, ma quando si tratta di favori, spesso non si guardano più certe divisioni o attriti. Così scrisse una lettera al re di Israele, perché guarisse Naaman. Come siamo profondamente egoisti e interessati. Non appena possibile, Naaman si mise in cammino portando con sé molti doni per andare dal re di Israele, il quale, sulle prime, andò su tutte le furie perché vedeva tutto questo come un pretesto per fare guerra. Ma, in seguito, esortato dal profeta stesso Eliseo, accettò di mandare l'ufficiale nemico dal profeta Eliseo a Samaria. Naaman partì con i più grandi propositi e, come ogni altro ammalato grave, era disposto a tutto pur di guarire. Conoscendo alcuni profeti di Israele, aveva ormai immaginato la scena della sua guarigione. Il profeta Eliseo sarebbe uscito fuori dalla sua abitazione e, per incontrarlo con tanta reverenza, si sarebbe fermato davanti a lui, onorandolo come il miglior ufficiale del re dei Siri, quindi avrebbe invocato il nome di Jahakaweak, il suo dio, avrebbe agitato la mano sulla parte malata e zac! La lebbra che prima lo aveva tormentato da tanto tempo sarebbe sparita miracolosamente di colpo. Che scena stupenda! Non vedeva l'ora di assistere al compimento di un miracolo davanti a sé. Come del resto secoli più tardi Erode non vedeva l'ora di osservare Gesù di fare un miracolo. Ma il vero Dio ci prende sempre di contropiede e fa molto spesso quello che non ci aspettiamo. Infatti Eliseo non uscì neppure dalla porta, ma si limitò semplicemente ad inviare un messaggero per dire all'ufficiale di tuffarsi 7 volte nel fiume Giordano. Naaman trasalì, si adirò fortemente desideroso di tornare a casa. Ma poi, convinto dai suoi servi, si buttò 7 volte nel fiume Giordano, uscendone guarito completamente. Si rese conto che obbedire al Dio di Israele era molto di più di tutti i sacrifici che faceva al suo Dio. Così, quando tornò a casa, Naaman non solo era guarito dalla spaventosa malattia e la sua pelle pulita senza macchia aveva l'aspetto sano di quella di un giovinetto, ma il procedimento di guarigione era stato ancora più profondo. Il suo cuore era stato toccato. Ora la sua fiducia era posta nel Dio di Israele. Egli dichiarò: «Lo so che non c'è è Dio in tutta la terra, ma solo in Israele». Invece di adorare gli idoli, era diventato un adoratore del Dio vivente. Non è detto altro di questa ragazzina. La sua vita è stata descritta in poche righe, eppure alcuni aspetti di essa ci colpiscono. Prima di tutto doveva essere una serva eccellente che faceva bene il suo lavoro. Qualcuno ha detto: «Quello che fai parla tanto forte, che non sento quello che dici». Essa è vissuta troppo presto nella storia per poter leggere le parole di Giacomo, il quale afferma che la fede di una persona è dimostrata dalle sue opere, eppure ha messo in pratica ciò che Giacomo predicava. Le sue azioni avevano preparato la via alle sue parole, ed essa fu presa sul serio dai suoi padroni. Quasi 1000 anni più tardi, Gesù disse ai suoi discepoli che essi sarebbero stati i suoi testimoni. Testimoniare significa parlare agli altri delle proprie esperienze, di quello che si è sentito e visto. Bisogna cominciare a far ciò a Gerusalemme, cioè dal luogo dove si abita. Ciò significa cominciare nel proprio ambiente. Se qualcuno è disposto a farlo, questo Dio si servirà delle sue parole. Egli benedice la persona che è disposta a testimoniare, dandole opportunità che non avrebbe immaginato. In secondo luogo, la ragazza non si lasciò bloccare dalla timidezza, non si credette troppo giovane per avere qualcosa di significativo da dire. Non pensò che la sua posizione fosse troppo bassa perché potessero darle ascolto. Vide invece una persona che aveva bisogno e credette che il Dio di Israele potesse sovvenire a quel bisogno. Ebbe fiducia che egli avrebbe guarito Naaman della sua terribile malattia. Non disse altro, poche parole semplici, che però ebbero un risultato significativo. Apersero un futuro interamente nuovo a Naaman. Poche, semplici parole portarono una nuova vita ad un uomo, speranza ad una famiglia e aiuto al re. Queste semplici parole attirarono l'attenzione sul Dio vivente e lo onorarono. Questa piccola serva continua a parlare alla gente ancora oggi, molto tempo dopo la sua morte, attraverso quanto ci è detto di lei, mediante la guida dello Spirito Santo. La storia non potrà mai cancellare quello che ha detto e fatto. Non ha detto molto, ma quel che ha detto rivelava la sua fede, una fede che era provata dalla realtà, che serviva alla gente che le stava attorno. Grazie alla sua fede, una vita è stata cambiata. Una sola vita? Non si sa, ma è certo che in seguito la moglie, il re di Siria, i conoscenti e tutto il paese vennero a conoscenza e videro il miracolo avvenuto nella vita di Naaman. È difficile pensare che nessuno abbia di conseguenza posto fede nel Dio di Israele. Ma se così anche fosse, una cosa è certa: il vero Dio si era esaltato oltre i confini del suo popolo. Del resto, questo è il suo primo scopo. La piccola serva insignificante non era poi tanto priva di significato. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti.